si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Si può fare. Allora, intanto numero verde 800 24 00 24, potete cominciare a prenotare il vostro intervento per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, come facciamo ogni weekend, oppure state in ascolto, perché tra poco il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana, e mettiamo in palio anche oggi, per la risposta giusta, un soggiorno responsabile di EcoTube. Fatevi un giro sul sito di EcoTube e trovate tutte le località belle, bellissime, interessate, tutte le possibilità che vi offre EcoTube. Allora, intanto fatemi anche dire una cosa: oggi, oltre a essere la festa della mamma, è anche la giornata nazionale della bicicletta. Ci sono un sacco di iniziative in tutte le città, informatevi, anche se siamo agli ultimi minuti, perché gli appuntamenti sono tutti nella mattinata. Voglio darne alcuni, giusto per chi magari si decide all'ultimo minuto. A Milano, appuntamento alle 11 a Piazza Castello, pedalata con Filippa Lagerbach, nella zona della nuova, tra l'altro, area pedonale di Milano, di Piazza Castello. A Torino, appuntamento a Parco Doria, adesso alle 9, pedalata intorno al parco. Poi a Verbania, per esempio, partenza alle 11.30 da via Terracini, pedalata in città e concorso fotografico. A Ferrara, ritrovo in Piazza Duomo, tra poco, a Ferrara in Piazza Duomo, tra le 9.30 e le 10 la partenza. A Roma ci sono tante iniziative, vi segnalo questa, ritrovo alle 9.30 in via della Appia Antica 42, alla ex cartiera Latina, al Parco Regionale. Poi ancora, che dire, a Messina, partenza alle 10 da Piazza Duomo, pedalata sul lungomare, alle 11.30 rinfresco. Ad Arezzo, partenza alle 10 dal Parco Ducci. Queste sono alcune delle iniziative per la giornata nazionale della bicicletta. Pedalate voi che potete, noi siamo qua in studio a Milano e quindi magari dopo. 800 24 00 24, tra poco rientriamo e parliamo del derby aperto in settimana da Flavio Briatore: start-up o pizzerie? Si può fare. Cronache da un paese migliore. In Italia parliamo di start-up, non abbiamo la banda larga, l'extra-large non ce l'abbiamo ancora, per cui anche chi prende l'impresa e dice io faccio una start-up, assumo 10 persone, se la start-up non funziona c'è bene che è fallito, cioè praticamente io conosco della gente che è fallita prima che la start-up iniziasse, per cui le spese, i costi, l'avvocato, il commercialista, per cui c'è tutte queste start-up che partono tutti come le maratone, no? Partono tutti e poi ne arrivano 3 o 4, non è che arrivino tutti quanti. In settimana Flavio Briatore agli studenti della Bocconi, una conferenza, una lezione dove bisogna prenotarsi giorni prima con email perché i posti erano pochi, insomma in sostanza gli ha detto occupatevi di cose concrete, non pensate chissà a quale startup di inventarvi chissà che cosa, piuttosto aprite una pizzeria. Cioè, allora, la cosa straordinaria, più bella di tutto questo secondo me è stato che i ragazzi che pagano migliaia di euro per fare questi corsi alla Bocconi, a questa cosa anziché mandare, cominciare a fischiarlo, insultarlo, hanno applaudito, evidentemente non del tutto consapevoli delle conseguenze di quello che stava dicendo Briatore, però forse non ha tutti i torti, bisogna occuparsi di queste attività artigianali. Sentiamo che cosa ha detto esattamente Briatore a proposito della pizzeria. Io vedo che in Italia cosa manca è il piccolo artigiano che si è sparito, no? La gente che fa dei lavori normali sono spariti. Io farei un'azienda in cui farei un pronto intervento di plumber, idraulico, cioè, io farei delle proprio così, inventerei una pizzeria da miscele, vi mettete 5-6 ragazze assieme. Quelle robe lì, a me ma che di là ti mangi la pizza, la startup se ti normale se ti fa. Risata e applausi. Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica. Abbiamo anticipato il tuo ingresso, dopo facciamo la copertina. Molto volentieri. Queste quindi, parole qua sì, di... quindi gli auguri a mia mamma li faccio dopo. Comunque dopo. Inizio a farli anche adesso, ma dopo faccio gli auguri a mia mamma. Sì che gli ho sentite le parole di Briatore. Vabbè, insomma, allora, ripeto, incredibile l'applauso, il sorriso. Vabbè, Briatore è un personaggio, quindi va così. Però noi vogliamo parlare con due persone che di startup se ne intendono in modo diverso. Ne parliamo con Riccardo Donadon, intanto che lo ritroviamo, fondatore di H-Farm, un incubatore, uno dei più importanti in Italia, proprio di nuove imprese di startup anche nell'area digitale. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Buongiorno. Ci eravamo sentiti quando Renzi era stato da voi, uno dei primi viaggi da Presidente del Consiglio, era venuto proprio anche lì da voi. Ma ne parliamo anche con Matteo Achilli, che è un giovanissimo fondatore di una startup che si chiama Egomnia. Buongiorno. Sì, buongiorno, buona domenica e grazie per l'invito. Un social network che si occupa, diciamo, di lavoro, ecco, è questo il tema. E sei stato paragonato, Matteo, inizio subito con te, il Mark Zuckerberg italiano. Ora, insomma, sono paragoni ovviamente super illustri. Sono paragoni forti. Io ho fondato il primo social network italiano che mette in contatto domanda e offerta di lavoro. Sì. Ecco, vabbè, quindi il riferimento era corretto, diciamo, a Zuckerberg di Facebook. Sì. Anche se devo dire che di confronti così, Steve Jobs, Zuckerberg, cioè, ogni tanto si fanno. Poi... ci si tocca di solito quando te li sì, fanno. Esatto. Perché uno dice: non vorrei che mi portasse sfiga. Non volevo dire questo, Matteo. Però insomma, spero che nel tuo caso, diciamo, al di là del paragone, poi la durata e il successo della impresa sia. Ecco, ti sei sentito però toccato da questa cosa qua di Briatore? Che tu, fra l'altro, hai fatto la Bocconi, no? Sì, io sono studente tuttora alla Bocconi. Ecco. Sono al terzo anno. C'eri a questo incontro con il Briatore? Non ero presente alla conferenza, però siccome se ne è parlato tanto, sì, anche dopo la conferenza ho avuto modo di ascoltare le parole. Ecco, ma ti ha fatto ridere o ti sei sentito anche, non dico offeso, però insomma, diciamo che pago un sacco di soldi, fra l'altro, per fare la scuola, ma poi la startup la fondo veramente, arriva questo e dice: ma fate la pizzeria. Ma non mi sono sentito assolutamente offeso, chiaramente alcune cose sono discutibili. Io la prima cosa che farei è fare una brevissima introduzione su che cos'è una startup, nel senso che è una parola che viene utilizzata molto spesso, penso anche mia nonna utilizza questa nuova parola che è entrata nel lessico, però pochi in realtà sanno veramente che cos'è una startup, forse nessuno. Giusto, infatti sì. Rispieghiamolo, io faccio un piccolo esempio. Alla Bocconi insegnano che la vita media di un'azienda è di circa 40 anni, mentre è risaputo che la vita media di una startup è di 600 giorni. Quindi la prima domanda che faccio è: allora la startup non è un'azienda. Esatto. E se la startup non è un'azienda, lo startupper non sta lavorando. Questa chiaramente è una provocazione, però permette di capire come questo termine venga utilizzato con confusione. Secondo me lo startupper sta lavorando, ma adesso c'è un abuso di questa parola, nel senso che io vedo la startup come il processo di realizzazione che c'è di un'idea e qualche mese dopo il lancio dell'azienda che si va a fondare. Dopodiché, se dopo un anno questa azienda non ottiene dei risultati positivi, non si è più uno startupper, si è un imprenditore che ha fallito. Quindi questa è una primissima introduzione che vorrei fare sulla startup per vedere un attimo cosa ritengo io. Ma soprattutto startup. Scusami, le startup sono semplicemente uno che ha un'idea e vuole cercare di mettere in pratica. Perdonami la provocazione, ma anche una pizzeria è una startup nel momento che parte. Uno decide di fare una pizzeria dove si ordinano le pizze solamente su Facebook, è una startup. sì, esatto, quindi, è una domanda giustissima. Startup è quando si costituisce l'azienda, si dà una ragione sociale a quello che prima era un progetto o un qualcosa che non aveva non è un SRL, un SNC. E infatti, cioè, quello che voglio dire è che mi sembra che Briatore in realtà abbia un po' confuso le due cose, perché ha detto le startup qua non funzionano perché non c'è la banda larga, ma non è una questione di banda larga, perché le startup non sono semplicemente fare delle app per internet. Esatto, proprio perché si sta creando una confusione dietro a questo termine. Cioè, adesso le startup si pensa principalmente al digitale. E Briatore dice un po' di cose, ha detto un po' di cose durante la manifestazione che io mi sono segnato quelle che più mi hanno toccato. E possiamo dirle, magari le commentiamo vai, insieme. Io mi sono segnato una frase che ha detto, che era: l'imprenditore si misura sul guadagno della sua azienda. Ora, su questo devo dire che io la vedo più o meno in questa direzione, però leggermente in modo diverso, nel senso che è giustissimo che un imprenditore veda l'azienda e un imprenditore si misuri sulla base del fatturato che questa azienda fa, però abbiamo visto ultimamente che molte aziende hanno una capitalizzazione da miliardi pur non avendo ritorni economici. L'esempio più clamoroso è stata l'applicazione americana di Snapchat, che ha rifiutato una proposta di acquisto di 3 miliardi sempre da parte di Facebook pur non avendo fatturato. Quindi secondo me questa cosa è importante da dire, cioè non è solo il fatturato che conta, ma è anche l'impatto sociale e la capitalizzazione che l'azienda ha. Matteo, aspetta un attimo però, perché voglio sentire anche Riccardo Donadon, sì, di H-Farm. Riccardo, tu di aziende ne hai fatte nascere, aziende anche vere, insomma, o quantomeno hai provato a farle nascere, perché è giusto anche che se ne lanciano 100, anche se in 20 o in 30 arrivano al traguardo, già il risultato è importante per quelle 20 o 30. Intanto un tuo commento su questa cosa qua di Briatore. Ma secondo me questa cosa di Briatore è una provocazione, l'ho presa per quello che è, cioè durante un evento si dicono tante cose, lui ha sparato questa cosa qua ad effetto, ha fatto ridere i ragazzi e finisce lì, secondo me, nel senso che non si può assolutamente non parlare di fare impresa in Italia. C'è un bisogno estremo in questo momento che si discuta sul fatto di spingere i giovani a fare impresa, perché la disoccupazione è talmente alta, le possibilità che loro trovino lavoro è talmente bassa che bisogna sicuramente incentivare, come non è mai stato fatto negli ultimi anni, i giovani a ragionare sul fatto che sono probabilmente la generazione più fortunata in assoluto in termini di opportunità che ci sono in questo momento, con questa disruption, con questo cambiamento forte che c'è stato, e devono avvicinarsi con la testa alla logica di mettere in piedi qualcosa per conto loro. Poi che queste cose, sì, non funzionino è normale. A me l'altra volta, Riccardo, aveva colpito che tu ci avevi detto che tra le iniziative che fate voi, insomma, c'è, cioè, quello di spingere i ragazzi che hanno capacità, conoscenze nell'ambito per esempio del digitale e quindi delle nuove applicazioni e anche di molte di queste startup, ad applicarle però ai settori dove l'Italia ha già un'economia, esatto, che va forte. Avevi, esatto, fatto l'esempio. Io sono abbastanza convinto che in questo momento in Italia il lavoro che dobbiamo fare noi, che devono fare tutti gli operatori che in qualche modo parlano del mondo delle piccole imprese innovative, perché secondo me vanno chiamate così e stop, così si evita qualsiasi tipo di confusione, devono cercare di indirizzare qualcosa. Adesso abbiamo un problema forse con la linea, Riccardo, ci sentiamo. Sta cadendo la startup, direi. Sta cadendo la startup. Sentiamo un attimo se riusciamo a recuperare un po' il filo del discorso con Donadon. Matteo Achilli, intanto Egomnia come sta andando? Egomnia sta andando bene, a brevissimo, nel giro di un mese, lanciamo anche in Brasile. E abbiamo più di 230.000 iscritti e 700 aziende che utilizzano la piattaforma, quindi diciamo facciamo parte di quelle 3-4 startup che ce l'hanno fatta, a cui si riferisce Briatore. No, scherzo, però per ora è così, bene. Ecco, però per prendere un po' sul serio quello che diceva Briatore, cioè che c'è bisogno nei settori dell'artigianato, lui citava il solito idraulico, le solite cose, però è vero che sono dati anche recenti che sono questi questi settori che non hanno crisi, che vanno bene, dalla ristorazione ma anche altri servizi, parrucchiere, l'estetista, le sartorie, i falegnami. Secondo te, anche se tu ti sei occupato, diciamo, del settore servizi con la tua startup Egomnia, è possibile innovare però anche con delle imprese innovative in questi settori che invece sono tradizionali, cioè coniugare le due cose, l'innovazione ma anche i servizi che poi servono davvero alla gente? Assolutamente sì, credo io, anche se sono un po' di parte, che l'innovazione porta con sé sempre qualcosa di digitale, quindi l'innovazione anche in quei settori sarà sicuramente influenzata molto dal digitale, però sicuramente Briatore ha detto anche una cosa, una provocazione detta anche in modo molto intelligente. Lui ha detto le startup che arrivano sono 3-4, si parla sempre di startup ma non abbiamo la banda larga, cioè manca un ecosistema all'interno del paese che aiuti a fare startup. Andate a fare i camerieri, più che altro, per esempio ho detto i miei camerieri guadagnano 5.000 euro al mese. No, prendono 5.000 euro al mese solo di mance. Solo di mance, quindi ancora di più. Sottolineando il fatto anche che non si pagano le tasse, che sono tutte in nero. Diciamo una cosa del genere detta alla Bocconi, dove i soldi sono sicuramente importanti, è una provocazione sicuramente molto intelligente, infatti ha fatto molto parlare. Questo, secondo me, questo che ha detto è abbastanza giusto, nel senso che è vero che manca un ecosistema in Italia e molti start-upers, chiamiamoli così, prendono a modello un modello statunitense che difficilmente è applicabile in Italia proprio perché manca l'ecosistema, ecco perché molte startup non riescono a partire. Faccio un piccolissimo esempio. Sì. Quali sono le caratteristiche del popolo italiano? Siamo un popolo di risparmiatori e non abbiamo molti venture capital, diversamente dagli Stati Uniti che hanno molti venture capital ma non sono famosi per essere un popolo di risparmiatori. Però in Italia molti start-uppers cercano di trovare questo finanziamento piuttosto che chiedere i soldi magari alla famiglia. Quindi questo può essere un esempio di questa mentalità che potrebbe iniziare a cambiare. Per quanto riguarda il fatto di essere start-uppers o aprire una pizzeria o fare il cameriere, io penso questo. Penso che adesso il fare startup sta diventando un po' il nuovo studiare. Mi spiego meglio. Adesso la mia generazione, penso il 70%, l'80%, quantomeno quello che percepisco io, sta studiando. Perché? Perché molto spesso appena si finisce il liceo o si sta per finire il liceo, ci si rende conto che il lavoro manca o che il lavoro non si trova. E quindi si va avanti a studiare. Uno, cioè, diciamo, fondare startup sta diventando, tu dici, un modo alternativo per studiare, per provare comunque a coniugare più in fretta lo studio con possibili attività lavorative, credo sia questo. Però volevo chiedere ancora una cosa a Donadon. C'è? L'abbiamo recuperato, Riccardo? Sì, ecco. Ma a me ha colpito un'altra cosa di quello che diceva Briatore, cioè la differenza, la distanza tra il sogno, come direbbe Crozza quando fa l'imitazione, il sogno americano, per esempio, cioè le parole di Steve Jobs, no? Stay hungry, cioè state affamati, siate affamati e agguerriti. E Briatore che dice no, ma c'è troppa burocrazia, le imprese non reggono, non ce la fate. Cioè un messaggio comunque scoraggiante. C'è anche questa differenza culturale che Briatore involontariamente forse conferma nel fatto che poi l'Italia davvero non le realizza delle imprese innovative, Riccardo, secondo te? Ma allora, un problema di burocrazia c'è, ma questo tocca sia le piccole imprese innovative che le imprese normali, quindi non è che ci sia un tassello che compromette il nostro settore, il mondo dell'innovazione rispetto all'altro. Nell'ambito dell'innovazione, 3 anni fa con il ministro Passera, 2 anni fa con il ministro Passera, abbiamo fatto un quadro normativo che è migliorativo rispetto a quello delle imprese tradizionali, nel senso che ci sono delle facilitazioni molto importanti, per cui oggi chi vuole fare una startup, chi vuole fare una piccola impresa innovativa ha delle semplificazioni abbastanza rilevanti che gli consentono di correre in modo molto veloce verso l'incorporazione della propria società, verso il fatto di fare delle stock option, accedere a dei capitali in modo più semplificato, quindi ci sono delle cose che sono state fatte. E io credo, dicevo prima, forse si sentiva male, che bisogna assolutamente incentivare i giovani a fare nascere imprese in questo momento, perché, come dicevo, è la generazione più fortunata in assoluto questa, perché c'è un momento di cambiamento fortissimo a livello proprio sistemico, provocato dall'innovazione, provocato da internet, che può produrre qualcosa di molto importante nei prossimi anni per tutte le imprese che sapranno prendere questo treno e saltarci sopra, soprattutto le imprese tradizionali che abbiamo in Italia, che se riuscissero a trovare nei giovani una linfa che gli possa in qualche modo rigenerare, portandogli un nuovo modo di porsi verso il mercato e nuove tecnologie per fare delle cose sul mercato, potrebbero trarne vantaggio, portare verso i giovani quell'occupazione che oggi non c'è, anche se magari lasciandoli con la loro impresa a provare a fare le cose e creare proprio una ripartenza di tutto l'intero sistema. 800 24 00 24, cari ascoltatori, avete sentito, grazie anche a Riccardo Donadonna e a Matteo Achilli, meglio provarci a fare una startup o meglio, come dice Briatore, aprirsi una pizzeria. Aspettiamo i vostri interventi tra poco, intanto io li ringrazio, i nostri due ospiti, il fondatore di H-Farm, Riccardo Donadonna, grazie, e anche Matteo Achilli di Egomnia. Buona giornata e buona domenica. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. Carlo, mi sembra interessante, perché ho la sensazione che in realtà Muratore stesse parlando molto del fatto anche di andare su un altro settore, cioè più che di startup, che come abbiamo detto prima, in realtà le startup sono tutti quelli che vogliono aprire un'azienda, è sul fatto forse di fossilizzarsi su un settore del digitale, dell'innovazione. Lui faceva anche ridere. Stiamo sul concreto. No, lui diceva: aprite una pizzeria, perché poi male che vada, mangiate la pizza. Lui ha proprio detto così. Sì. E invece, effettivamente, se tu fai delle app e poi le app vanno male, che ci fai con delle app se per 8 anni hai cercato di fare un nuovo social? Non può essere un consiglio serio, mangiatevi la pizza. No, però il consiglio serio secondo me era il fatto di occuparsi di cose concrete, nel senso lui diceva: iniziate a fare un lavoro anche manuale, l'idraulico, dopodiché magari ci fai la startup per cui tu fai l'idraulico digitale, che tu lo chiami via internet, però comunque intanto sai fare l'idraulico. Sai cosa c'è? Non mi è sembrato sbagliato. Sai cosa c'è? Che una pizzeria, una pizza, il bisogno di mangiare ci sarà sempre, e infatti continuano a cambiare gestione di ristoranti, ad aprire pizzerie. Su altre scommesse ipotetiche c'è la questione ipotetica. Certo. Potrà funzionare o no? Ha fatto un po' entrambe, nel senso, poi alla fine poi c'è il milionario, non è che... Esatto, lui poi alla fine si occupa un po' di quello. 800 24 00 24, torniamo tra poco, ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno. Tanti auguri alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo. Sì, posso mettere in testa la mia, che sennò si prende male. Ognuno parte dalla sua. Alla pari, ma la mia prima. Comunque alla pari, però prima la mia. Ecco. Io ho detto anche un'altra cosa, che oggi oltre ad essere la festa della mamma è anche la giornata nazionale della bicicletta. Ho ricordato un po' di appuntamenti: Milano, Torino, Ferrara, Roma, Arezzo, eccetera. Ascoltatori, approfittate anche della trasmissione se siete a conoscenza di un raduno particolarmente interessante di mamme in bici, di mamme in bici. Oggi per esempio si chiama Bimbi in Bici, l'iniziativa. Chiamateci e diteci: guardate, a Firenze ci troviamo tutti, alle cascine a mezzogiorno venite. Ma non si possono paragonare questi due argomenti? Mia mamma si prende malissimo, com'è possibile? Cioè, vorrei fare gli auguri alla tua bicicletta, tu? No, io preferisco comunque fare gli auguri a mia mamma. Ci tengo moltissimo. Le due cose: mamma in bici. Mamma in bici, bello, sembra un bel format, direi. Sì. Anche per un canale un po' di nicchia, però interessante. Potrebbe funzionare, Carlo. Assolutamente. Allora, dopo le chiacchiere, dopo con le chiacchiere, start-upper, adesso vediamo un po'. Allora, io voglio iniziare leggendo un messaggino che mi è arrivato dopo che ho pubblicato questo video che si chiama Malato, io sto benissimo, in risposta, diciamo, alle parole di Carlo Taormina, dette anche qua a Radio 24, sul fatto che essere gay sia o meno una malattia. E ho ricevuto un sacco, a Nord Europa, ho ricevuto sia messaggi, diciamo, di complimenti e lode, sia anche messaggi di ragazzi, tipo un ragazzo che mi ha detto: guarda Carlo, che tu non ti preoccupare, tu non sei nato gay, se vuoi noi ti possiamo guarire, vieni da noi che ti possiamo guarire. Che e io gli ho anche detto, giustamente, gli ho detto: guarda, io ti dico una cosa, già sei bellissimo e va benissimo, quindi io mi potrei innamorare di te, ma se mi guarisci mi innamoro di te di sicuro, anche semplicemente per riconoscenza. Leggo un messaggio di Stefano che mi scrive: sono sicuro che di messaggi simili al mio ne riceverai una marea, ma in una parola come un grazie ci sono rinchiuse tutto il mio affetto verso te, che aiuti tanti ragazzi e tante famiglie ad affrontare una tematica sulla quale oggi nel 2014 regna ancora molta ignoranza. Il mio non è stato un percorso semplice, ma alla fine, dopo aver visto e rivisto il tuo video, aver ragionato, pensato, oggi oltre ad essermi accettato per chi sono da sempre, ho fatto coming out con la mia famiglia. La cosa più bella è proprio che, nonostante le tante difficoltà sociali e economiche, oggi sono felice perché oggi so chi sono. Carlo Gabardini nelle scuole, lo vogliamo nelle scuole. A parte video, che già mi dicono che il video marmellata e Nutella viene usato per aprire, no, non lo leggevo per farmi i complimenti, lo leggevo nei confronti di un ragazzo che appunto che fa coming out, che decide di fare coming out, e soprattutto perché dice e oggi sono felice. Questa cosa, come ne abbiamo parlato qui, visto che un po' tutto il mio coming out è stato seguito da Alessio Maurizi. Senti, ma ce l'hai una notizia che ci porta però in un altro mondo? Sì, adesso, in un altro... sì guarda, perché, guarda, non so quanto in un altro mondo, ho una bellissima notizia, cioè, sempre in un altro mondo, insomma, visto che abbiamo parlato molto spesso, più volte di favole gay, appunto. Ecco, non allarghiamo il gioco. Ma questo non ce la faccio, era un argomento invece, come ben ricordo, abbiamo intervistato anche chi aveva organizzato, l'assessore che voleva fare, esatto, così. E mi interessava, la notizia non riguarda le favole gay, però siccome la notizia delle favole gay ai tempi, diciamo, riscosse un sacco di polemiche, gente che diceva ma come, i nostri bambini, non è possibile. In realtà le favole non erano favole gay, ma erano semplicemente delle favole che con dei finali più aperti, sì, e evitavano, diciamo, di avere un eterocentrismo come unica strada e altre strade fuori dall'eterosessualità di additarle come sbagliate. Infatti invece i nostri figli leggono per fortuna Biancaneve e i Sette Nani, e si è scoperto da Mitchell Stephens, docente di storia della televisione all'Università di New York, ha studiato e è uscito con uno studio shock che svela il significato nascosto del nome dei sette nani. Mi devo preoccupare. Ovvero, Ti devi preoccupare, perché il riferimento, in realtà, i sette nani sarebbero i sette modi di reagire alla cocaina, i sintomi, diciamo, della cocaina. Ovvero cucciolo, che in inglese è dupe e significa sfatto, quindi la prima sensazione provata con l'uso di cocaina, quindi la spossatezza fisica e psichica. Brontolo, che in realtà è grumpy in inglese e significa irritabile, rappresenta il tipico sintomo dell'astinenza, cioè l'irritabilità. Non mica solo quelli che hanno usato la cocaina sono brontolo. Non solo, però diciamo, poi ci sono sneezy, che fa starnuti, gongolo, quindi che è sempre felice, che fa riferimento all'effetto esattamente di euforia. Vabbè, mi sa che questo mammolo, professore era un po' sotto stupefacente. Ma un po' sotto stupefacente, però tu vedi i sette, effettivamente i sette sintomi, diciamo, della cocaina, e poi ti chiedi, beh, con chi stanno i sette nani? Beh, con Biancaneve. Quindi allora direi che tutto. Non credo che ci sia andato molto lontano. Questo per dire che appunto le favole poi sono interpretabili, e questa ansia, diciamo, di dire, ah, sì, i nostri bambini, forse i bambini capiscono meglio di quello che i nostri studiosi poi si mettono a studiare. Facciamo giusto una telefonata, va, prima della pausa, Michele da Padova, poi dobbiamo dare anche l'indizio, lo diamo subito. Diamo l'indizio. Per saggio della settimana, si vince un soggiorno responsabile, dovete indovinare questo personaggio, che è una mamma, e oggi non poteva essere diversamente. Sarà banale, ma è così. Michele da Padova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve. Io ho aperto anch'io una nuova impresa, una nuova azienda l'anno scorso, una startup. Anche lei startupper? No, assolutamente no, purtroppo, perché in realtà mi spiace che il bocconiano non abbia raccolto la cosa. Io sì, credo, mi spiace, mi fa ridere l'idea di spezzare la lancia a favore di Briatore. Quando Briatore diceva startup, intendeva, ed è chiaro, quella che si chiama startup innovativa, che è un qualcosa, sì, di ben specifico, per il quale ci sono dei requisiti che sono restrittissimi, ed è complicato essere startup innovativa. Ah, cioè lei voleva introdurre questa distinzione, diciamo, proprio lessicale, nominale, che però... sì. Perché se io faccio una pizzeria, oppure la mia copisteria che accetta ordini online dal sito internet, sì, non è startup innovativa, perché per essere startup innovativa ci vuole tipo un brevetto, qualche cosa depositato. Devo avere un brevetto. Bravo. Devo avere un terzo di dipendenti che siano laureati o che abbiano dottorato di ricerca. Sì, sì, ma guardi che Briatore diceva proprio questo: cioè non vi state a inventare cose strane, fate le cose banali, più ma concrete, che iniziate la cosa più concreta. Ma lei di cosa si occupa la sua impresa, se possiamo chiederglielo? Come, scusami? La tua impresa, Michele, di cosa si occupa? Padova è città universitaria, sì, ho una copisteria, mi occupo quindi di fotocopie, stampe tesi e stampe... Cioè, diciamo, hai seguito il consiglio di Briatore da un certo punto di vista, sì, andando sulle cose che si sa che funzionano, città universitaria, fotocopie, tac, molto semplice. Come vanno gli affari? Funziona, per fortuna. Ci siamo inventati. Bene, questo ci fa molto piacere, Michele, quindi. E grazie anche per averci chiamato e per aver ricordato, inserito questa distinzione, in effetti sì, insomma, ma credo che fosse implicita nelle parole di Briatore. Beh sì, era quello che stavamo sostenendo, sì, prima. In realtà sì, no, non era implicita, ma è che lui si occupava solamente di un settore, sì, e noi pensava a quello. Esatto. Sì. Traffico. si può fare. Cronache da un paese migliore. E adesso è il momento delle nostre cartoline dalle periferie, così come Renzo Piano con gli architetti del suo pool ha messo in piedi il progetto del rammendo delle periferie. Cioè, sapete che Renzo Piano utilizza il suo stipendio da senatore a vita per far lavorare 6 giovani architetti. Io sono curioso di sapere presto cosa ne uscirà per fare progetti per risistemare le periferie italiane. Siccome noi abbiamo un cantastorie che si occupa molto delle periferie e organizza spettacoli nei luoghi non luoghi, buongiorno Simone Saccucci, ti ritroviamo? Buongiorno. Buongiorno. E allora noi buongiorno. Approfittiamo anche noi per farci mandare ogni settimana, ogni domenica, una cartolina da qualche parte, da qualche luogo non luogo. Questa settimana, Simone, ci ha colpito questa notizia, per esempio a Rimini c'è cioè un braccio di ferro tra il comune e i proprietari di alcune palafitte che sembrano anche delle case, diciamo, affascinanti sul mare, case storiche, però c'è dietro il tema dell'abusivismo, perché il comune ha detto devo regolarizzare, qua ci sono anche ville abusive sul mare, case con l'Eternit, con l'amianto, dobbiamo tirarle giù e ripartire da capo. È un tema che l'Italia purtroppo conosce fin troppo. La risposta che spesso queste persone danno: ma questa è casa nostra, qui ci sono le nostre radici, non potete mandarci via. Oggi Simone ci racconta una storia che in qualche modo, anche se indietro nel passato, ha a che fare con questo. Simone. Sì, sì, vi racconto la storia del signor Giovanni, il signor Giovanni Baldini, che dopo la Seconda Guerra Mondiale arriva a casa sua a Roma e dentro casa trova degli sfollati che hanno fatto casa dentro casa sua. Non se la sente, non ce la fa proprio a dirgli di andare via. Così decide lui di andare via. Esce fuori da Roma, arriva in un posto bruttissimo, sì, è la parola esatta. Molti lo chiamano il Biafra di Roma, qualcun altro lo chiama Valle Stregata perché è proprio brutto, pieno di rocce, spine, streghe. E lì decide di farsi una casa, comincia a farsi questa casa e decide dentro casa di fare un giardino bellissimo. È appassionato di fiori, apre casa sua, fa sì che gli altri entrino dentro casa sua per vedere il giardino, e lentamente diventa anche un po' la piazzetta del paese, che non ha niente. E a un certo punto però questo signor Giovanni capisce che senza un nome non si va da nessuna parte, guarda il paese che non ha un nome e decide di dargliene uno. Insieme a chi abitava lì, guarda i colli, perché questo posto è una valle e attorno ci sono montagne e colline, e pensa a questo posto come a un posto dove chi vuole ricominciare può ricominciare, come ha fatto lui. E così pensa ai fiori, alle cose che gli piacciono. Pensa ai fiori, che cosa fanno? Sbocciano, e molto spesso quando sfioriscono risbocciano di nuovo, e così chiama questo posto Colle Fiorito, il mio paese. E vedete come si può sempre ricominciare. E questa era la storia di Colle Fiorito. Questa era Simone Saccucci. Grazie Simone, buona domenica. Noi ci sentiamo, anzi ci devi fare un annuncio, perché tu stai andando, sei in macchina adesso. Dove stai andando? Sì, direzione Scampia. Sto andando a Scampia ad incontrare i ragazzi di Gridas, Resistenza Antica Morra, perché vorremmo organizzare qualcosa insieme per novembre, ma domenica prossima vi racconto meglio com'è andata. Benissimo, bello, bello, benissimo. Molto bello. Simone va a fare gli spettacoli ovunque, in una cava di marmo a Guidonia, stavolta va a Scampia. Grazie Simone, a domenica prossima. Il francobollo di questa cartolina di oggi è la sua canzone, La Fodera Blu, del Divano. Mamma ha visto il mare a 18 anni, nonna si è affacciata al balcone, ha strappato ad una le ricette ed ha gridato vaffanculo dottore. Papà se n'è andato proprio ieri e m'ha lasciato il negozio e i sacrifici, il pallone sotto nel garage e mi ricorda i giorni felici, quando ero un contadino con la zappa, quando ero un pecoraro con le pecore e sedevo sopra un dondolo che non cigolava e nessun ricordo mi attanagliava. Mia figlia ha imparato a pattinare in questa estate afosa di quartiere, ora scende giù per via delle mimose e mi sorride, sorride felice. sorride a questo contadino senza zappa, a questo pecoraro senza pecore, che siede sopra un dondolo che cigola e ha un ricordo che lo attanaglia. Il sole si è spento troppo presto, il cielo si è fatto grigio pesto, ma noi due ancora speriamo. Infatti abbiamo comprato una fodera blu del divano. E questo era Simone Saccucci. Abbiamo ancora un pezzettino di tempo, di spazio a disposizione per gli ascoltatori. 800 24 00 24. E sentiamo Adriano che ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Prego. Ma mi volevo ricollegare al tema vibriatore, le start-up, le pizzerie, per sì, dire una cosa un pochino, se vogliamo, provocatoria. Io avrei i miei dubbi che gli studenti della Bocconi siano in grado di creare e gestire una pizzeria. Ho capito. Perché? Faccio start-up da molti anni, da 15 anni in Italia, in molti settori diversi, sì, e vedo ogni settimana start-upers che chiedono di incontrarmi per validare la loro idea. E noto con grande rammarico il fatto che quasi sempre quando escono questi start-upers, questi ragazzi escono dalle nostre università, non hanno per niente pronto il tema che secondo me è il tema centrale di ogni azienda, cioè un team multidisciplinare. Le nostre università sfornano diciamo neolaureati in una direzione molto molto univoca, per cui gli ingegneri elettrici stanno con gli elettrici, i fisici stanno con i fisici. Ah, c'è troppa specializzazione. Lei la mette sul piano della specializzazione, Adriano. Io pensavo che fosse una battuta sull'immaturità, no, dei ragazzi, invece lei ne fa un discorso. Ma un tempo non si diceva l'esatto contrario, che era proprio nei paesi anglosassoni che tutti uscivano molto specializzati in un'unica cosa, però in quella cosa erano i migliori. Invece gli italiani sapevano anche altre cose più vaste, più di cultura anche generale, e poi non ne sapevano. Ne parliamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Credi che sia semplice, vai a farti fottere, credi che sia una storia semplice, cielo senza nuvole, un amore utile, sempre alla ricerca dov'è. E questo era Stupido Hotel di Vasco Rossi, una canzone del 2001, ce la segnala Federico Nola, un nostro ascoltatore. La vostra canzone, il vostro Si può fare, rilanciamo questa iniziativa dicendo agli ascoltatori che va bene le canzoni anche dei grandi cantanti come questa, però a noi piacerebbe sentire anche degli inediti, delle canzoni magari di gruppi emergenti, band giovanili, magari che fanno anche dell'impegno sociale, culturale o per la legalità. Insomma, abbiamo fatto sentire Azzardopatia, ce ne sono tante altre sulla mafia, che si impegnano in qualche cosa, che sono un po' il vostro Si può fare in musica anche autoprodotto, ecco, questo sì, i nostri canali. Potete scrivere delle vostre canzoni, sì, cantarle, mandarci, quello sarebbe molto molto bello. Oppure se avete appunto dei brani già scritti, inediti, però che in qualche modo contengano le parole Si può fare, perlomeno. Potete anche candidarvi per fare la sigla del programma, perché l'anno prossimo magari la sigla la cambiamo, mettiamo qualcosa di più originale. Allora ricordiamo, potete scriverci, Si può fare a radio24.it, potete trovarci su Twitter, l'account Twitter del programma è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. E il mio @ Carlo Gabardini. Oh, tra l'altro, diciamo anche, l'abbiamo detta la parola chiave questa settimana per la buona notizia, per il nostro contest. La settimana prossima è ambiente, giusto? Esatto, quindi se c'è un parco nuovo nel vostro quartiere, stanno facendo la pista ciclabile per portarvi da casa al lavoro e volete diventare nostri inviati, non lo dobbiamo che spiegare, vero? L'abbiamo spiegato troppe volte. Comunque mandateci la vostra notizia, che noi mercoledì sceglieremo il nostro inviato e lo investiremo di questo ruolo. Allora, sentiamo Giuseppina da Roma intanto al numero verde. Buongiorno quest'oggi, Giuseppina. Buongiorno, sono buongiorno. Sì, sei in onda. Sì, sono in onda. Volevo provare a indovinare il personaggio della settimana. Ottimo. È la mamma di Ciro Esposito. Non è. Certo, perché la notizia... Perché ha avuto una reazione molto civile, sì. Nonostante quello che è successo al figlio, è stata veramente di esempio e comunque non avrei esultato se avessi vinto, ripeto, perché sono molto dispiaciuta per il fatto che quel ragazzo non si sa ancora esattamente se camminerà ancora. E se non sbaglio la madre ha detto io perdono chi ha sparato mio figlio, subito. Una cosa straordinariamente quasi difficile da capire e da accettare, però è stato veramente un esempio, anche non so come dire, insomma, fa bene al cuore anche ogni tanto vedere reazioni così delle persone così. Grazie Giuseppina, però non era la mamma di Ciro e in effetti ci poteva stare tutta assolutamente questa. Ci sembrava di entrare cerchiamo personaggi positivi, ma non sempre, insomma, che siano attinenti a una notizia della settimana. Avevamo detto e ribadiamo, l'indizio è una mamma. E quindi aspettiamo altre risposte. Dobbiamo dare altri indizi? Diamo adesso l'altro indizio e diamolo. È una mamma che si occupa di altre mamme. Ok. Tina dalla provincia di Taranto, buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno a voi. Buongiorno. Io chiamo per a proposito sempre dello startup di impresa. Sì. Volevo puntualizzare una cosa, che insomma quello che dice Briatore è vero fino a un certo punto, nel senso che ci sono diversi tipi di impresa e non c'è solo l'impresa for profit, c'è anche l'impresa no profit. Personalmente con un'associazione del quale sono socio fondatore, che è una onlus, e che si occupa di tutela del territorio e randagismo canino nella nostra regione è un problema endemico, voglio dire, è un grosso problema quello del controllo del territorio sotto questo aspetto. Sì, però che c'entra questo col discorso di Briatore sulle startup? Perché c'entra nel senso che le Camere di Commercio d'Italia, io credo che siano state una trentina, hanno fatto un progetto di startup come impresa sociale. Mm-hmm. Noi abbiamo partecipato e siamo risultati anche vincitori di questa startup come impresa sociale, e questa è la differenza tra l'impresa for profit e no profit. La for profit, diciamo, è quella di Briatore, che guarda l'utile d'impresa. La no profit, come quella che noi stiamo cercando di far nascere, è un'impresa sociale che invece è volta al territorio, cioè gli utili poi dopo di questa impresa vanno a favore del territorio e della comunità nella quale si vive. Diciamo che è va bene. Comunque Briatore non è che non parlasse di questo, perché ricordiamo che anche le startup non profit devono comunque guadagnare a sufficienza, per cui le persone che ci lavorano vengano pagate, perché sennò si pensa sempre che il non profit sia il lavoro gratuito fatto a fin di bene. Certo, questo sì, è vero, però permette al territorio di crescere laddove poi gli enti non sono capaci di garantire il controllo del territorio, gli enti preposti, e quindi diciamo non nasce in sostituzione dell'ente. Va bene, abbiamo capito, insomma, si può innovare anche nel sociale, cioè si possono fare imprese nuove anche nel sociale, a volte anche come supplenti di carenze pubbliche, a volte in appalto si gestiscono dei servizi, è stato giusto anche ricordarlo, cioè sì, forse è vero, una terza via ci può essere, no? Sì, è che Briatore secondo me non escludeva questo tipo. No, però non ci pensava proprio. Diciamo. No, non è vero, è che nel momento che lui dice se è fallimentare, se un'azienda è fallimentare, anche un'azienda non profit è fallimentare nel momento che non può pagare i propri lavoratori, perché a quel punto deve chiudere, perché non è che si può lavorare gratis. Sentiamo anche Dario da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego. Allora, io lavoro nell'ICT da un bel pezzo, ormai sono 51 anni. Communication Technology, ma perché non lo possiamo dire in italiano, no? Non si può? Ha ragione anche lei, è verissimo. Io, se possibile, volevo mandare due messaggi, uno per comprovata esperienza mia, e poi comunque per farli arrivare a chi di dovere. Uno è i giovani. Noi, come popolo, diciamo, no? Siamo molto ingegnosi, ma molto, veramente. Allora, noi italiani? Anche i giovani, sì, sì, sì, non perdono le speranze. Bene. Ma il settore del digitale, per esempio, sì, anche a livello applicativo, devono praticamente lavorare su quello, perché in Italia è un lavoro ancora che non è aperto, non è aperto a loro per far piccola impresa su delle innovazioni, su delle applicazioni particolari che portano business. E quindi lei crede proprio al digitale, proprio al contrario di quello che diceva il suo abbreviatore. Non è tutto, ovviamente, però è una fetta di business che non è ancora comprovata in Italia. Allora, oggi come oggi si sa che non ci sono confini, per cui se è una buona idea, sì, e questa idea può funzionare, il discorso che valga in Italia poi realmente può valere anche nel mondo. Allora, di conseguenza, noi siamo ingegnosi, i giovani non devono disperare. Se hanno una buona idea, che ci non è importanza che siano programmatori, che poi dicono, ma no, ma io non so come farla, ma conta veramente l'idea. Poi le risorse si trovano. E un altro messaggio che voglio far arrivare... Cioè, lei è a disposizione per metterci qualche risorsa, se c'è qualche buona idea, per esempio, tanto per fare... Ma io penso che ci sia tanta gente che è disponibile... No, era una battuta. Vuole lasciare il numero di telefono? L'ho dato a voi. Il discorso è questo, il secondo messaggio è di far arrivare gli incubatori. Io ho avuto un'esperienza da incubatore nel 2004. Li abbiamo tenuti in ballo una settimana, non faccio i nomi. Alla fine siamo arrivati al solito punto che si dice, bellissima, poco difendibile ma bella, ma a voi chi vi manda? Allora, questo non può esistere nel mondo degli incubatori, non può più esistere, perché gli incubatori in Italia sono già pochi, a differenza degli Stati Uniti, e a questo punto qua anche loro devono diventare professionalmente importanti, senza guardare chi è che ti manda oppure no. E i giovani non perdono mai le speranze, perché abbiamo l'ingegno. Va bene, Dario, grazie, questo l'abbiamo capito, ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico. C'è molto traffico, che anche incombe oggi, domenica. Anche se è la giornata nazionale della bicicletta, però... È anche la giornata nazionale di mia mamma, volevo dire, quindi tanti auguri, mamma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding. Track of your timing, grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. Con questi Zac Brown Band, Island Song, la canzone dell'isola, lasciamoci alle spalle queste atmosfere più caraibiche e veniamo a parlare di un'isola italiana, una piccola isola davanti a Venezia. Parliamo di Poveglia, un'isola messa in vendita dal demanio. C'è stata un'asta, ma soprattutto c'è un'associazione di cittadini che la vogliono difendere dal rischio speculazione. Sappiamo che questo rischio non è solo un rischio, ma è una probabilità certissima. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Poveglia per tutti, Giancarlo Chigi. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti per essere riusciti a mettere in piedi una cordata di cittadini che, insomma, di fronte a questa cosa dell'asta, ha detto vabbè, rimbocchiamoci le maniche e mettiamo mano al portafoglio. C'è stata una prima asta, avete già partecipato, non è andata malissimo perché siete comunque in gara, ci sarà il rialzo. Però intanto ci racconti un po' la storia di questa isola Poveglia per entrare in argomento. Sì, è un'isola che chi è stato qua in laguna la conosce abbastanza bene. Si tratta di una piccola isola di 7 ettari, non è neanche piccolissima, si trova alle spalle della Giudecca. Okay. Accanto ad altre due, forse più famose, San Clemente, che è un'isola, sì, in cui fino all'anno scorso funzionava un resort di lusso. E poi accanto a questa ce n'è un'altra che si chiama Sacca Sessola. Però, insomma, ecco, si tratta di piccole isole dove chi abita a Venezia andava a fare piccoli bagni quando era piccolo. Oppure magari il picnic la domenica, insomma, una gita, esatto, fuori porta. E ancora adesso è inserita nei circuiti, diciamo, di turismo, dove però non... attualmente non c'è, non ci sono grossi, insomma, alberghi piuttosto che grossi insediamenti, sì, e di edilizia. No, l'isola è abbandonata sostanzialmente dal 1974. C'era solo un custode che coltivava anche dei campi, sì. E per il resto è un'isola che è un pezzo di storia veneziana. Lungo quell'isola passava il confine durante l'occupazione dei genovesi, sì. Della laguna di Venezia, ed era un avamposto della città storica, forse uno dei primi luoghi insediati della laguna. Ecco, poi arriva il momento nel quale il demanio, quindi lo Stato, la mette in vendita. Sì, questo avviene recentemente. Ci sono stati dei tentativi di vendita negli anni 80 che sono andati a vuoto, e poi l'isola è stata sostanzialmente abbandonata a se stessa. Dei palazzi storici settecenteschi sono crollati, quindi adesso ci sono tantissime rovine. La decisione del demanio di metterla in vendita noi l'abbiamo appresa dai giornali solo i primi giorni di aprile. A quel punto è nata una mobilitazione e avete detto: abbiamo paura forse, sì, che ci possa essere una qualche speculazione, perché si comincia a parlare di alberghi, intendiamoci, non è che ce l'abbiamo con chi vuol fare un albergo in un posto turistico, però forse in un'isola come quella... Forse più che l'albergo, il problema è se se la compra un privato che ci fa se la tiene per la lui, chiude, sembra eccetera, un pezzo eccetera. Di storia di Venezia. E quindi che avete fatto? Sì, non abbiamo parlato di speculazione. All'inizio, devo dirle la verità, l'assenza di base d'asta, cioè il fatto che l'isola venisse venduta a 0 euro, ci sembrava una follia. E quindi quando abbiamo voluto partecipare... Cioè la base d'asta era 0 euro, quindi si partiva... La base d'asta era 0 euro. Per cui poteva essere comprata magari a 50.000 euro da qualche... O a 1 euro, per esempio. Anche 1 euro. Noi volevamo inizialmente mettere 1 euro per provocazione. E invece ne avete messo... Ne abbiamo messo 160.000, perché il 6 maggio avevamo raccolto 159.000 euro e uno in più l'abbiamo messo sulla fiducia. E però c'è chi è davanti a voi, giusto? In quest'asta? Sì, è davanti a noi, perché... E con una bella differenza, mi sembra di capire. 513.000 euro ce li ha messi invece un gruppo immobiliare? Mister X, non sappiamo di chi si tratta. Stiamo cercando di dirgli, sì, di venire fuori, di dirci che progetto ha sull'isola, però al momento si cela dietro l'anonimato. Ecco, ma la vostra preoccupazione di cittadini, che poi la buona notizia per noi qual è? Che un gruppo di cittadini metta anche sì mano al portafogli, perché no, ma soprattutto si ponga la questione: che fine farà questa isola, che comunque per noi è un valore, memoria, storico, ambientale. Voi vorreste farne comunque un'isola a basso impatto ambientale, un'isola ecologica, cioè in un contesto naturale importante. Ci racconti anche questo aspetto, come è montata la vostra questa cordata? Sì, per noi è stata una storia di partecipazione, non è una storia di soldi. Abbiamo avviato questa campagna con lo scopo di raccogliere 20.000 euro. Alla fine adesso ci siamo trovati il giorno 6 con 160.000 e il giorno 9 con 310.000. Quindi evidentemente la popolazione, soprattutto veneziana, ha capito che andava posto un argine alla diffusione di progetti fallimentari. Il punto è proprio questo, che le altre due isole di cui parlavo all'inizio, sì, sono dei resort di lusso che però sono falliti. E sostanzialmente l'idea forse delle isole del lusso è un'idea che non si adatta alla laguna di Venezia. Conviene comprare quelle però di isole, che almeno hanno il nuovo resort, visto che quella che volete comprare voi ha detto che è piena di rovine. Ma quella ce la vendevano a 1 euro. Certo. Il gruppo turco che si è aggiudicato San Clemente ne ha preso 80 milioni. Giustamente. Scusi Giancarlo, è anche un problema di prezzo. Le altre due isole, ci sono dei resort che sono falliti, cioè quindi attualmente, sì, ci sono delle strutture tipo alberghiere o di residence che sono inutilizzate? Sono inutilizzate. Adesso due grossi gruppi immobiliari stanno puntando a riattivarle, ma quindi sono già fallite. Quindi potremmo dire, Giancarlo, che insomma, che si è creata una, non vogliamo usare la parola speculazione, non usiamola, si è creata una cementificazione, un mostro di edilizia che adesso è inutilizzato, cioè su un'isola che deve essere un paradiso, insomma, bellissima, e voi avete paura che si faccia nuovamente lo stesso errore, insomma. Esatto, che è un errore di investimenti. Oggi Claudio Scarpa, che è il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, ha chiesto a questo signor Mr. X di ritirarsi da questa proposta e di lasciare l'isola ai veneziani. Quindi avete l'appoggio anche dell'associazione? Abbiamo un appoggio imprevisto. Ma che cosa ci farete se riuscite a comprarla voi l'isola? Ecco, in un mese non abbiamo voluto vendere fumo, per cui ci siamo posti la questione di raccogliere degli iscritti e abbiamo raccolto 3.000 persone che hanno sottoscritto una quota non irrilevante di 99 euro. Ma ecco, e quindi saranno tutti in qualche modo soci e comproprietari di quest'isola, è giusto? Soci dell'associazione, noi abbiamo specificato che nessuno trarrà nessun giovamento personale, certo, da questa attività. Quindi le persone che hanno contribuito sono diventate dei soci donatori più che... E sono tutte quote di 99 euro, non è che c'è qualcuno che ci ha messo 37.000 euro? Qualcuno ne ha messo di più. Più di una quota. Ma non così tanti, perché noi abbiamo questa regola che poi si voterà in un'assemblea, sì, e una testa, un voto, non una quota. Ah, interessante, interessante. Senta, ma mancano pochi giorni, no, al rilancio d'asta, mi pare. Il 13 maggio. Noi ci chiediamo due cose. Sì, facciamo un appello, anche a chi ci ascolta se vuole unirsi a voi. Esatto, la prima è di continuare ad unirsi a questo progetto che, ripeto, è di partecipazione, non di soldi. La seconda è un appello allo Stato, se consideri l'idea di vendere un'isola come questa, che è un pezzo di storia veneziana, quasi fosse una pentola bucata al prezzo di un appartamento in centro storico. Ecco, questo ci sembra Come si fa a mettere i propri 99 euro? Avete un sito, suppongo? Esatto, sì, grazie. Allora, il sito è povegliapertutti.org. Sì? Perfetto. E chiunque può farlo, non bisogna essere veneziani. Chiunque può farlo, infatti abbiamo donazioni da tutto il mondo. Bello. Molto bene. E poi si viene in assemblea e si vota, quindi. Beh, chi vuole, ci sarà un'assemblea, ce n'è già stata una, che viene gestita con processi partecipativi, per cui non è semplicemente un venire a votare, è proprio uno strumento diviso per tavoli per raccogliere idee e formare un'opinione. Grazie. Una domanda stupidissima, ma se non riuscite a comprarla, ridate indietro i 99 euro? Certo, abbiamo già stabilito che 80 dei 99 euro torneranno sicuramente. E gli altri toglieremo le spese di gestione di tutte queste iniziative e poi restituiremo anche quelli. Molto bene, grazie mille, bella iniziativa. Bocca al lupo, ci sentiamo subito dopo il rilancio d'asta, perché a questo punto siamo curiosi di sapere come è andata a finire. Anche perché adesso ce li metto anch'io i miei 99 euro per avere un pezzo di isola a Venezia. Povegliapertutti.org il sito. Ce la facciamo a sentire? Sì, vai, un ascoltatore prima di andare in pubblicità. Luciano da Genova, buongiorno. Ciao carissimi, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Ci conosciamo? Allora, buona domenica. Sono qui, buona domenica. Carlo, ci conosciamo solo in Facebook, Movimento LGBT, ciao ciao. Ah, ciao. Sì, qualche scaramuccio e una risposta lì in commento. Comunque, sto chiamando per rispondere al quiz di oggi. Oh, benissimo. Allora, non so il nome, diciamo, della persona, però dovrebbe essere la presidente Associazione Genitori Vittime Droga Napoli. Perché? Perché questa risposta? Perché io ho sentito una trasmissione dell'autonomia, sì, che seguo ogni giorno, ogni mattina dalle 6.30, ed è stata appunto ospite telefonicamente. Sì, l'ho sentita anch'io. Esatto. Quando si parlava di legalizzazione e cose di questo genere. Quando si parlava di legalizzazione è stata, diciamo, secondo me, la migliore diciamo delle tre dei tre commentatori, anche perché giustamente in effetti Luciano è una mamma che si occupa di altre mamme, e lei parlava proprio in quanto mamma in quanto insomma genitore di sì di un ragazzo che era finito in galera per droga. Tra l'altro lei diceva non invocava la mano troppo leggera, perché diceva sono tutti liberi però poi non sappiamo come gestire. Era una testimonianza importante, però non era lei, non era lei il nostro personaggio della settimana. È un'altra mamma, è un'altra mamma che si occupa di altre mamme. Grazie. Andiamo in pausa? Sì. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ehi, non fare il sapiente. Tu non sei divertente. Io che sono deficiente. Io ti spacco la tua mente. Ma tu diventa demente. Sì, dai. Diventa demente. Pensi di essere importante. Ma non sai che tempo di mente. Partecipazione ed allegria. Cia, cia, cia. La cultura. Adesso spiegheremo anche il significato della cultura degli Schiantos, perché abbiamo scelto questa musica. Intanto, cultura, poi ti cura. Poi ti cura. Intanto ci chiedono di commentare, Carlo, all'SMS 349-238-6666 la stratosferica vittoria della bravissima Concita all'Eurofestival. Sì, più si può fare di così. Non l'ho dato come notizia, perché poi mi dice che parlo sempre di questione. Quindi ho dovuto scegliere. Che è successo nel mondo? Perché ha vinto una drag queen con la barba. Esattamente. Ma non ho capito, scusa, è una drag queen, cioè con la barba, però vestita da donna. Sì. Quindi è un uomo vestito da donna che canta con una voce, perché non l'ho sentita, bellissima, mi dicono. Sì, ovviamente assolutamente. Sarà un falsetto all'amica. Esattamente, è un austriaco, ha vinto... Va bene, ha vinto. Ne siamo molto contenti. Non sei un tubo su questa cosa, perché tu di musica non ti intendi. No, è ma vero. Nemmeno io. Sono la notizia di ieri. Poi, siccome ormai va molto di moda questa barba, a me la barba non piace molto, devo confessare. Forse perché non ce l'ho, non lo so. Qualcuno dice che è solo invidia la mia. Poi mi fate risentire gli Schiantos dopo, perché abbiamo persi in sottofondo, ma ci servono. Poi spieghiamo perché. Intanto, Anna Rita da Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Volevo rispondere, se era possibile. Sì. Allora, io pensavo a Michelle Obama. Brava. Ce l'ha fatta. È partito un po' in realtà. Però ci deve dire anche a quale notizia è legato. La notizia dovrebbe essere quella che lei si è sostituita al marito per il discorso del sabato, facendosi carico di quel problema serio in Nigeria, sì, delle 200 ragazze che sono state rapite da Boko Haram. Esattamente, diciamo, partecipa su Twitter con l'hashtag Bring Back Our Girls. Esattamente, ridateci dietro le nostre ragazze, sì, al quale si stanno, diciamo, stanno aderendo un po', sì, tutti, però anche diciamo, anche il Papa. Brava Anna Rita. Solo che il Papa, non essendo una mamma, non potevamo sceglierlo nel giorno della festa della mamma come personaggio della settimana. E volevo ringraziare mia figlia per gli auguri, Ilaria, grazie mille. Benissimo, grazie. Fantastico. Questo quadretto familiare vince, Anna Rita, un soggiorno responsabile di EcoTube, che ci mette a disposizione questi piccoli soggiorni già da qualche domenica. Allora, adesso dicevamo, possiamo risentire un pezzettino di Schiantos, così introduciamo. Questa è la settimana poi del Salone Internazionale del Libro di Torino. Abbiamo scelto anche qua una notizia che ha a che fare coi libri, ma in un modo particolare. I libri. È curiosa questa notizia, perché più libri leggi, meno resti in carcere. Dalla Calabria la proposta di legge. Allora, intanto ci saranno già gli ascoltatori con i capelli ritti, perché sai che quando si parla di depenalizzare, di pensavo di libri, anche quando si parla di libri a volte si parla di carcere, gli ascoltatori di Radio 24, ma in generale sono sempre un po' sul chi va là, perché temono. Però noi diciamo sempre come premessa che tutti i progetti di recupero, anche di studio nel carcere, di lavoro o anche progetti culturali come questo, abbassano la recidiva, quindi sì, vanno prese sul serio queste cose qua. Anche perché ricordiamo che in Italia, diciamo, i carceri hanno uno scopo rieducativo, non di allontanamento dalla società. È un'assicurazione per tutti noi, quella di chi, del fatto che chi esce dal carcere non è intenzionato a tornarci presto. Ne parliamo con l'assessore alla cultura della regione Calabria, Mario Caligiuri. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Allora, questa iniziativa devo dire che è originale e curiosa, perché io ne ho sentite tante, diciamo, di iniziative che puntano alla premialità nei confronti dei carcerati coinvolgendoli in progetti di questo tipo. Qua cosa avete pensato voi? Ma guardi, è originale fino a un certo punto, poiché è stata già sperimentata con un certo successo in Brasile, con risultati apprezzabili, e teniamo conto che anche l'Unione Europea ha dato come direttiva per quanto riguarda la rieducazione all'interno delle carceri, quello di trovare delle attività che siano realmente utili a redimere le persone, a fare ripensare le persone e il modello di vita. Ora, è evidente che noi diciamo sempre, e questo è un luogo comune, come tutti i luoghi comuni, c'è nascosto di tutto all'interno di queste parole e di queste affermazioni di principio, che si riparte dalla cultura, che la cultura è alla base di tutto, è alla base dello sviluppo economico. Si dimentica un dettaglio fondamentale, che la cultura ha una premessa indispensabile, che è la lettura, perché se uno non conosce le parole, e non chi conosce più parole ha più idee, chi ha più idee ha una visione del mondo e quindi riesce a distinguere, ad avere un pensiero critico, a distinguere il bene dal male, e quindi può essere un'attività veramente importante. E come funziona però questo progetto? Esatto. E ora, la nostra è una proposta di legge che ovviamente viene trasmessa al Parlamento, perché la competenza è dello Stato centrale per quanto riguarda questo tipo di materia. Sì. Sì. Le regioni hanno una funzione propositiva. Ma qual è il progetto? Ci racconti il progetto, che è la parte bella. Il progetto riguarda l'idea che noi abbiamo messo in campo, è questa: se uno legge un libro, ha diritto, potrebbe avere diritto a tre giorni di sconti di pena. Il libro va concordato con gli educatori che ci sono all'interno delle carceri, che poi verificheranno l'avvenuta lettura di questo libro. Va concordato, va concordato il libro, perché non vale qualunque libro. Può essere, cioè tipo Fuga da Alcatraz, no. In effetti Fuga da Alcatraz non è un buon libro, che uno dice. Potrebbe valere anche questo, va concordato, in questa azione di dialogo e di confronto può valere anche qualunque libro. Quindi libri. Caligiuri, una domanda: perché lei dice una proposta di legge, perché deve decidere il Parlamento? Le carceri non sono già libere di organizzare queste premialità, di coinvolgere i detenuti in progetti culturali e di studio, facendolo? Però non hanno diritto a tre giorni di sconto di pena, come noi prevediamo. Giusto, perché qua si tratta proprio di uno sconto di pena. Questo sì. Ci vuole una legge, e quindi avete inviato una proposta di legge al Parlamento, alla Camera, sì, o al Senato? Perché fra un po' al Senato lo chiudono, quindi. Speriamo che arrivi prima. No, vediamo. Io quando vedrò un senatore che vota contro l'approvazione del proprio organo, le darò ragione. Sì, ho capito. Lei è tra gli scettici che dicono che il Senato non lo voterà mai. Ci vuole molto, però. Non ci vuole la Sibilla Cumana, quell'etiope o quella somala per capirlo. Senta, ma poi ci sarà anche un esame, nel senso che uno dice: ho letto questo libro, adesso vediamo. Verifichiamo. Guerra e pace. Hai letto tutto Guerra e pace. L'attività di verifica viene svolta dagli educatori, dagli operatori che sono all'interno del carcere. Teniamo conto che questa è un'attività che può essere veramente dirompente se viene svolta con la serietà necessaria. Certo, ma ognuno può leggere nella propria lingua, giusto? È evidente. Perfetto. E quindi giustamente bisogna mettersi d'accordo, perché magari uno dice: no, ho letto il libretto di istruzioni del frigorifero, effettivamente quello non è un libro, giusto? Anche se ci sono libretti di istruzione che sono più complicati di alcuni romanzi che ho visto in giro, però. Vabbè, però la letteratura mondiale offre degli esempi straordinari. Certo. Va bene, insomma, resta appunto poi da verificare che la lettura sia avvenuta effettivamente, perché e magari anche la durata del libro può essere importante, perché se uno legge un libro di 10 pagine, un libro di poesie, ci metti di meno. Ungaretti va bene, però Mi illumino d'immenso non è che vale meno di Fratelli Karamazov. Che ne pensa, Caligiuri? Non c'è dubbio che sia così, ma lei tenga conto che quando si legge è l'abitudine alla lettura, avvicinarsi alla lettura, appassionarsi alla lettura, perché quando si entra in quell'ottica e cambia la dimensione del tempo, poi quando si legge un libro oggi è come se lo si leggesse 1000 anni fa, 2000 anni fa, perché il tempo per leggere un libro è sempre lo stesso. Uno sì. Si approccia. Poi se uno è in carcere il tempo neanche di più. Poi va detto che la cultura non è neanche solamente la lettura, nel senso che poi dopo questo si potrebbe anche arrivare al fatto di dire, se uno si sente la nona di Beethoven e la sente più volte, anche quello non è che l'unico modo, diciamo, per apprendere come va il mondo sia leggere dei romanzi. Non perché c'è dubbio, è un c'è inizio, dubbio. Però potrebbe essere. Tutto parte da là, tutto parte dalla parola. Certo. Quindi la parola è la base di tutto, perché si ha una visione del mondo attraverso. Infatti, poi anche la parola cantata a un certo punto, quindi va bene. La parola cantata, musicata, letta, scritta. Vabbè, quindi a questo punto, cioè, dipende dal Parlamento che vada avanti o no questa proposta. Cioè, voi avete gettato il sasso nello stagno, insomma. Sì, ma ci sia un grande interesse, perché sono stato contattato dalla segreteria del ministro Orlando della giustizia, che sono molto interessati a questa proposta. Va bene. Posso dire un'ultima provocazione? Nel momento, diciamo, in cui è stata confermata la condanna Dell'Utri, che Dell'Utri è un noto bibliofilo, forse lui con un po' di sconti alla fine gli basta una settimana con tutto quello che ha letto. Ma c'è una... È un consiglio, diciamo, per fare una campagna di comunicazione, ecco. No, tenga conto che c'è una... viene applicata ai detenuti che hanno almeno 6 mesi di detenzione massimo per 48 giorni. Ma sì, no, ma era una provocazione. Per il momento Dell'Utri non era neanche stato preso, quindi... Scusa, non ho capito perché viene applicata solo ai detenuti che hanno... Che hanno 6 mesi, che hanno una condanna superiore a 6 mesi. Vabbè, Dell'Utri quindi Dell'Utri ci rientra. Io sto raccontando quello che è il nostro disegno di legge che stiamo proponendo al Parlamento. Sì, sì, ci rientrerebbe. No, beh, lui come tutti. Va bene, grazie. Grazie mille. Grazie Mario Caligiuri. Grazie, grande attenzione. Assessore grazie. Calabrese. Vedremo se il Parlamento porterà avanti o meno questa iniziativa. Direi che dobbiamo fermarci ancora per il traffico. E basta. Ci sentiamo dopo. Tra poco, sì. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Trova un'amica, trova un tesoro, storia antica e sulla una bugia, sentiva per un amico bene core, e se ne chiude tu l'amore mio. Sincero tienemi pa' mano, guardami lontano, addosso po' scurda, tanta malvagità. Sincerità, oggi cerca dentro pacienza botte. Senti Gavardini, che melodia meravigliosa. Sento. Abbiamo parlato di un'isola, di Poveglia, della campagna Poveglia per tutti. Abbiamo parlato dei libri che fanno bene ai detenuti in Calabria. Adesso parliamo della prima libreria, della libreria che apre in un'isola, l'isola di Procida. Ecco perché abbiamo scelto di partire con Gino da Procida. Lo conoscevi? È un po' il Claudio Villa? No, non lo so. No, bellissimo però, Gino Mario da Procida. Gino da Procida. Straordinario. Canzone, credo, degli anni 50. E ne parliamo con Danilo Petrucci, che è responsabile di Nutrimenti Bookshop di Procida. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno Danilo. Allora, a parte che intanto grazie per questa bellissima introduzione. Vabbè, però io ho subito una critica da fare, perché noi siamo partiti con Giuliano Procida, tutti ispirati, l'isola di Arturo, il libro della Morante, eccetera, però la libreria si chiama Bookshop. Qual è la tua critica? Sentiamo. No, non è sull'italianità. Poetico. Sull'italianità io faccio questa battaglia, che non è una battaglia, perché è una a parte che inutile. Bookshop è come aprire una libreria e chiamarla libreria, posso dire? Vabbè, ma caro mio, qualche piccola concessione alla modernità bisogna farla, altrimenti voi scommettete sull'innovazione. Già vendiamo libri che rischia di essere un gesto antico. Questo è vero, facci un po', ha ragione, è tutto concesso. Dice, già vendiamo libri, ci posizioniamo su un settore già difficile. Sì, però ribadisco, ti trovo un conto è trovare un nome divertente anche se sia straniero, ma chiamarlo con il corrispettivo, cioè la traduzione, dire l'abbiamo chiamato libreria, insomma, la critica ci stava, visto che è la prima libreria. È un piccolo sottotesto, dai, se va tu vedessi bene. La nostra insegna è scritto in piccolo sotto, E in grande cosa c'è scritto? Siate magnanimi, nutrimenti. Ah beh, questo è più bello, quindi è la libreria nutrimenti, possiamo dire, o il bookshop nutrimenti. Certo. Forse pensate un po' magari anche ai turisti, perché poi Procida è un'isola anche credo turistica, quindi magari se vedono bookshop si rianimano un attimo. Ma è vero che diciamo, da quanto tempo non c'era una libreria sull'isola di Procida? Ma guarda, una libreria vera e propria a Procida in realtà non c'è mai stata. C'era qualche piccola rivendita di libri all'interno di cartolerie, giornalai, ma insomma una libreria vera e propria non c'era. Quindi siamo contenti di aver perché colmato io poi questa lacuna. Diciamo ecco, così. Sono andato, Danilo, a vedere, io non sono mai stato a Procida, a vedere qualche informazione sull'isola e ho scoperto che insomma, è abbastanza abitata, cioè non è che parliamo di un'isola con pochissime persone. No, non parliamo di uno scoglio in mezzo al mare. Quanti abitanti ha Procida? Ne ha circa 10.000, quindi sì, insomma. C'è vita per i libri anche, direi. Sappiamo che le difficoltà sulle isole ad andare e tornare, quindi ad andare a fare acquisti fuori, insomma. Ma guarda, questo no, perché in realtà Procida ha una buona prossimità rispetto a Napoli, sì. Cioè molto vicina, parliamo di mezz'ora di Aliscafo. È forse la più vicina tra le varie isole. È la più vicina. Quindi da questo punto di vista non ci sono grossi problemi. Senti, ma cosa resta anche un po' di quell'isola, l'isola di Arturo, cioè l'isola della vegetazione, degli animali, l'isola bella in mezzo al mare, meno nota delle altre, meno anche forse presa d'assalto ai turisti, ma per questo anche più affascinante, che abbiamo letto in quel libro lì, tra l'altro. No, le cose belle restano e in bassa stagione sono lì e riesci a vederle. Naturalmente Procida, appunto, non è un'isola piccolissima, quindi d'estate anche per fortuna si riempie. Lì, sai, e le cose belle le togliete. È più difficile vedere le cose, più difficile, però insomma. Ma tra l'altro direi che potrebbe anche andare bene, perché forse su un'isola così non arriva la grande distribuzione delle librerie, che è poi il problema di tutte le librerie invece d'Italia, che gli aprono di fianco un bookshop di 9 piani e dopo diventa molto difficile vendere anche solamente un libro di Camilleri. Invece forse su un'isola così... Da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, non crediamo che nessuno... ci disturberà a breve. È buono, perché diciamo i vostri clienti per andare a comprare il libro da un'altra parte devono prendere una nave, giusto? Esatto. Ottimo. E che spazio è questo della libreria Nutrimenti sull'isola di Procida? Sì, come, che tipo di libri, che spazio è, dove si trova? Questa è una libreria intanto generalista, anche se non è una bellissima parola, ma è per dire che è una libreria vera e propria, che ha tutto, ha narrativa, saggistica, manualistica. Poi c'è un settore di mare abbastanza corposo, sostanzioso, anche perché Procida insomma è un'isola che ha una importante tradizione marinaresca, inoltre da pochi anni c'è un porto turistico per velisti, diportisti, quindi abbiamo un settore mare abbastanza interessante. E poi naturalmente c'è un settore a vocazione locale, con storia, tradizioni dell'isola, della Campania in generale, insomma. È una libreria non piccolissima, perché 130 metri quadrati circa, ed è inoltre è molto bella. Si vede il mare da lì. Speriamo... Danilo, si vede il mare? Come, scusa? Il mare si vede dalla libreria? Il mare è a 50 metri, noi siamo a ridosso del porto. Bravo, l'importante porto è che si veda il mare, no? Credo che sia più difficile trovare un posto in cui il mare non si vede a Procida, comunque. Sì. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie, Danilo domenica. Petrucci della libreria Nutrimenti Bookshop di Procida, la prima libreria dopo chissà quanti anni a Procida. Siamo in chiusura, allora, intanto no, siamo proprio in chiusurissima. Chiusurissima! Tanti auguri, mamma, volevo fare gli auguri a mia mamma, oggi festa della mamma, 10 maggio, tanti auguri, mamma. Grazie e mamme, tutte. Ad Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Camilla Tomadini, grazie a Filippo Reggi in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo, buona domenica da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, buona domenica. Ciao.